Di questi fatti la agiografia, cioè la scienza dei santi, è piena. È un miracolo, certo, che testimonia come la Chiesa è veramente santa. Credo la Chiesa una santa cattolica apostolica, santa. E tutti siamo figli della Chiesa santa. Tutti siamo chiamati ad essere figli santi di Santa Madre Chiesa, tutti. Nonostante il carattere, il temperamento, nonostante le nostre debolezze, infermità, cocciutaggini, certi difetti si attaccano terribilmente, non c'è paragone con nessun'altra malattia, con le malattie fisiche, ma le malattie dello spirito sono molto peggiori di quelle psichiche e di quelle somatiche, corporali. Eppure siamo sempre figli di una santa madre, la Chiesa, la quale nel suo seno ha lo Spirito Santo. È lo Spirito Santo che forma i santi, e lo Spirito Santo è l'anima della Chiesa, lo Spirito Santo, l'eterno amore, invincibile amore di Dio, è a nostra disposizione, se intendiamo con sincerità, ricominciare da capo. Che bello poter ricominciare da capo. Non è una finzione nostra. È lui che ha detto: Pietro, perdona non 7 volte, 70 volte 7. Sempre, sempre. Questa parola di Cristo ha infuso coraggio in padre Leopoldo, ha infuso coraggio in quell'uomo di politica, ha infuso coraggio in quell'ubriacone. E non infonderà coraggio anche a noi? Ma è bello sapere ogni giorno che si leva il sole su di noi, è un giorno nuovo. Il giorno di oggi è un giorno nuovo, nuovo. Ogni giorno è un giorno nuovo, irrepetibile, che non si ripete, cambia sempre. E se vogliamo, ogni giorno è una nascita nuova nel nostro spirito. Perché è lui che fa i santi, lo spirito creatore che è Signore e dà la vita, l'amore di Dio. È l'amore di Dio che ci dona questa nuova giornata piena di sole, in questa oasi così profumata, di abeti. Ogni giorno è un giorno nuovo, anche se arrivasse carico di nebbia e di freddo, è sempre una rinascita per il nostro spirito. Rinascita. Questa è una notizia molto bella. Vi verrà certamente utile quando un po' di pessimismo, di malumore vi prendesse l'anima. Un senso di sconforto, di tristezza, un senso di fallimento, un senso fallimentare. Come mandare via questo pensiero triste e assassino? Bisogna mandarlo via. Ecco, ripensando che ogni giorno è un giorno nuovo, tu oggi puoi ricominciare da capo in bellezza, in grazia, nella pace della coscienza. Ricomincia da capo. E il pensiero cupo, triste, pessimista sparisce come la nebbia sparisce al apparire del sole.